scomodi pure, siccome vuoi. Prima di tutto il suo nome? Oranno Alfredo. Alfredo Maria. Maria. Ha facoltà di non rispondere. No, al contrario, voglio. Vuole rispondere. Voglio fare una dichiarazione. Sì, comunque vuole rispondere. Certo. Perché poi adesso, se mi consente. Lei vuole fare adesso una dichiarazione? Sì. E poi le parti potranno porle delle domande. Io devo avvertire che ha facoltà di non rispondere. Va bene? Se mi ha consentito, nel corso della dichiarazione stessa, cercherò di chiarire per me cosa vuol dire rispondere o non rispondere. Voglio, signor Presidente, la vorrei pregare di avere, come anche lor signori, un po' di pazienza, sia per la difficoltà nell'articolare quello che sto per dire, sia anche purtroppo per la sua lunghezza e anche forse difficoltà, pesantezza certe volte. Questo è stato uno dei motivi che mi ha fatto riflettere a lungo sul volere o meno rilasciare questa dichiarazione, che non è mio interesse e nemmeno mia abitudine parlare per il piacere di parlare. Io penso che è importante cercare di arrivare a chiarire alcuni elementi di natura teorica che stanno a fondamento di una parte considerevole delle accuse che mi sono state rivolte dal Ministero Pubblico. Quindi la mia, diciamo, la particolare difficoltà e la lunghezza di quello che dirò non dipende tanto dalla quantità di cose che ho da dire, quanto dalla difficoltà per primo per me stesso di arrivare ad esprimermi, a cercare un livello, diciamo, semplice e nello stesso tempo non riduttivo. Non banale. Non banale e non penalizzante per i contenuti. Mi sono chiesto, prima di decidermi a questo passo, per me importante, forse uno dei passi più importanti di tutta la mia vita, se era possibile, signor Presidente, una discussione degna di questo nome tra un rivoluzionario e una corte d'assise, cioè un giudice e un accusato. Se invece il ruolo reciproco che ognuno di noi veste non facesse agio alla stessa capacità, alla stessa disponibilità di capire, primo per me, di rendermi disponibile seriamente, fino in fondo, a dire come la penso. Certo, non c'è dubbio che io sono in una radicale contrapposizione nei vostri confronti. Però nello stesso tempo penso che la contrapposizione sia una dimensione di fatto, una dimensione reale, non una qualche cosa che ha bisogno per esistere, per prendere corpo, per essere visibile, per avere il suo significato, ha bisogno di accorgimenti retorici, luoghi comuni, momenti della memoria del passato che tutti lo signore sanno benissimo, solidificati in comunicati, slogan, sigle, riassuntati, punteggiati. Di solito l'accusato in un processo o tace o si difende. la legge glielo consente, tutte e due le cose. Io, con il vostro permesso, ho scelto di non tacere, ma di non difendermi. Difendermi. Quindi quello che dirò non vuole essere un comunicato, vuole essere qualcosa di più. Voglio approfondire questa mattina, nel più breve tempo possibile, ma non proprio in brevissimo tempo, una parte consistente della mia vita. In fondo le mie idee, il mio modo di vedere il mondo, la mia Weltanschauung, è la mia vita. Dovete nello stesso tempo cercare di capire che io mi trovo in un'aula di giustizia, non sono in una cattedra universitaria, sto facendo una conferenza. Sono quinti, di già anche a livello un pochettino più in basso di voi altri, vi vedo più in alto, vi vedo come dominatori. Devo cercare di farmi coraggio. Non userei il termine, siamo in una posizione più elevata perché siamo distaccati. E guardiamo questo, tutto dall'alto, e questo se mi, mi consente, signor Presidente, io penso che non è l'impostazione sua di dominio, ma di distacco, di separazione, di disinteresse. Se mi consente, cercherò di arrivare proprio dove lei mi ha preceduto per chiedermi se è possibile questa posizione che dice lei. Vediamo. Innanzitutto, quindi, io ho difficoltà per il luogo dove mi trovo, un'aula di giustizia. Ho difficoltà perché devo parlare di me stesso. Non potete sapere quanto è difficile probabilmente che uno parli di se stesso. In una situazione come questa, riassumere la mia vita, io ho 62 anni, riassumere tutta la mia vita in una punta di spillo. E quindi, tornando a quello che il signor Presidente diceva all'inizio, io vorrei chiarire che sono disponibile a rispondere a domande eventualmente successive a queste dichiarazioni che riguardano le mie idee e i fatti della mia vita. Non sono invece disponibile a rispondere a domande che riguardano fatti di altre persone, idee di altre persone, anche qualora queste persone fossero miei imputati. Lo dico subito questo per evitare di una noiosa ripetizione di non rispondo, non voglio rispondere e così via. Mentre sono più che disponibile a parlare di me stesso. Come temeva, mi ricordo, il GIP nella seduta che ci fu a suo tempo, quando eravamo tutti ancora in ceppi, temeva che io fossi soltanto disponibile a leggere lui lo chiamava un proclama oppure un comunicato. Io personalmente sono stato sempre contro i comunicati, come hanno una pesantezza ideologica che va al di là di quello che cercano di comunicare, di dire. Ne abbiamo letti troppi in passato e non so quanto di queste letture sia stato utile sia a chi l'ha redatti e a chi li ha recepiti. In fondo io penso che ci sia un rapporto tra chi si tringeva dietro la stringatezza apparentemente significativa, martellante, di un comunicato e certe ristrettezze ideologiche. La stessa visione progettuale, la stessa concezione della vita si racchiude in quel comunicato e lì spira, morendo, perché non è capace di vivere diversamente. Quindi io ho sempre, scusatemi, ho sempre considerato il comunicato. Comunicato E vorrei che ci capissimo cos'è il comunicato, penso che forse io lo do per scontato, sono quei testi che genere un certo tipo di organizzazioni del Stato, o in presente non voglio entrare in particolare che riguardo, fornivano all'opinione pubblica, alla grande informazione, per dare corpo ideologico, sostanza esplicativa a certe azioni. Per me il comunicato costituisce una protesi immaginaria, cioè dire sostiene qualcosa che è stato già fatto in un modo assolutamente irreale, lo porta in una dimensione non concreta, ancor meno sarebbe secondo me utilizzabile in questo contesto la lettura di un comunicato. Perché io vi sto frastornando questa storia del comunicato? Che senso c'ha, visto che non devo leggere un comunicato? Perché vorrei portarvi su un altro livello, un'altra dimensione del pensiero, un altro modo di concepire la vita e nello stesso tempo anche un altro modo di concepire il rapporto interlocutorio che, sia pure a distanza, dovremmo stabilire stamattina fra di noi. Dovrei, cioè, dire, arrivare a farmi capire attraverso un discorso più articolato, un discorso che potremmo dire piano, semplice. Questo discorso io l'ho fatto a me stesso tante volte, nella mia mente, spesso lo faccio la sera prima di addormentarmi. Ma io non sono un ribelle, non sono mai stato un ribelle, io sono un rivoluzionario. Non so se ricordate la bellissima frase di Brecht, dice: dalle biblioteche escono i massacratori. Io esco dalle biblioteche, quindi sono un massacratore col cervello, non sono un ribelle della giornata. Tutta la mia vita ha come scopo, almeno gli ultimi 30 anni della mia vita, quindi metà e passa della mia vita, ma io vengo da un'esperienza diversa. Quanto è difficile parlare di se stessi. Io sono stato impiegato di banca per 10 anni e 8 mesi. Sono stato dirigente industriale per 7 anni, ho diretto un'industria farmaceutica. Insomma, è stato un capitalista? Cioè, no, capitalista no, però servitore dei capitalisti sì. Sono questa zona. Sono stato sempre questa persona, capace di laurearmi e poi, non una volta, diverse volte, e poi troncare questa attività, perché l'ho ritenuta intollerabile, ingiustificata, perché ho maturato col passare degli anni chiarezze che la mia nonno ribellione di base mi impediva di capire altrimenti. Sono qua quindi perché sono sdegnato intellettualmente, prima di tutto. Io mi rifiutai di parlare, di rispondere alle domande che il dottor Marini mi rivolse la mattina che mi interrogò in carcere. Microfono chiuso, poi il dottor Marini è un uomo d'onore, se lo ricorderà sicuramente. Gli chiesi se lui avesse scritto il testo dell'ordine di custodia cautelare. Lui mi disse di no, ma che lo condivideva come articolazione. Io definii quel testo disonesto. Che cosa vuol dire termine disonesto? Quale parametro comune potrei avere io con un pubblico ministero? E a me sembra disonesto, il pubblico ministero potrebbe tranquillamente entrare. Ma che cos'è l'onestà? Forse che mettere la mano nella tasca altrui è un comportamento disonesto? Per moltissimi lo è. Ma per me il concetto di disonestà è un'altra cosa. È non avere interesse, preoccupazione, perché il concetto che si afferma, l'idea che uno ha in mente, che prende corpo attraverso le parole, si trasforma in concetto e viene portata sulla carta o sulla voce, abbia corrispondenza con la realtà. Questo per me è disonesto. Ecco perché sono sdegnato. Sono sdegnato per alcune delle accuse che mi sono state rivolte, non per tutte. Vedremo adesso quali sono queste accuse, in particolare riguardano un'accusa associativa, lo vedremo dopo. Io mi rendo conto che le mie idee possono sembrare remote o comunque difficilmente condivisibili, non sono qua evidentemente a fare opera di propaganda, non voglio convincere nessuno. Io voglio comprendere, e se comprendo meglio io, l'occasione può essere buona anche per voi, anche per lei, signor Presidente, può essere che anche lei possa capire, comprendere meglio. Tutte e due possiamo prendere insieme un equivoco probabilmente che c'è stato, forse. E allora il mio sforzo per cercare di capire quale meccanismo si è mosso al di sotto di una parte delle accuse che mi sono state rivolte, forse non lo riusciremo a capire. Io sarò sicuramente colpevole di aver fatto perdere del tempo a loro signori. Ma per arrivare a capire questo meccanismo e il mio sdegno, bisogna anche cercare di capire in che modo io percepisco l'uso dell'intelletto, l'uso della ragione. Mi ricordo che c'è scritto nelle annotazioni redatte dai carabinieri, ho un passo che poi citerò dopo, comunque c'è l'avverbio ragionevolmente, si legge, credo a pagina 21, comunque vedremo dopo perché tornerò su questo argomento, che io ragionevolmente dovrei essere il capo di un'organizzazione. Ma che vuol dire ragionevolmente? Quale ausilio si chiede il carabiniere estensore di questo testo alla ragione perché io sia il capo di quell'organizzazione? Chiede conforto, evidentemente, chiede un'assistenza. Però in tanti anni di utilizzo, non so in che termine comunque, e di frequentazioni con persone che usano la parola anche per mestiere oltre che per piacere, sono reso conto che probabilmente molti aspetti della parola costituiscono delle illusioni. Noi siamo veramente convinti di riuscire a vestire la realtà, i fatti, con le parole. Siamo veramente convinti che le parole siano il rispecchiamento di fatti della realtà. La mia è ovviamente una domanda provocatoria. Tornando al discorso del mio rifiuto di rispondere all'interrogatorio del dottor Marini, mi sono rifiutato perché ritenevo il documento che avevo sotto gli occhi, perché non avevo altro, avevo solo il mandato di cattura, non adeguato, diciamo. Poi dopo, avendo più disponibilità, più documenti, più carte, ascoltando, eccetera, eccetera, mi sono reso conto che qualcuno, a qualche posto, aveva commesso un errore. Ora, siccome qua non si tratta di fatti nel senso tecnico del termine, tale giorno, a tale ora, il signor Tizio era o non era davanti la porta del signor Caio? È chiaro che questo è un fatto che può essere, sia pure in maniera indiretta, comprovato. Ma si tratta di teorie. Da quasi 30 anni io affronto quotidianamente la repressione per sostenere le mie idee. E certamente, signori, io non sei arrivato all'età di 62 anni per negare queste idee qua, oggi, davanti a voi altri. Sarei certamente, se fossi disposto ad una cosa del genere, sarei uno spregevole individuo. Ma nello stesso tempo non sono uno stupido. Non sprecherei qui il mio tempo e non approfitterei della vostra benevolenza se non fossi veramente convinto che qua c'è qualcosa che non funziona nell'accusa. Siamo presenti nell'accusa per quel che riguarda l'aspetto teorico. Perché se invece io fossi d'accordo con l'accusa, se io fossi veramente il teorico di cui l'accusa, di quella organizzazione di cui l'accusa mi dà credito, ma io la riconfermerei qua, la rivendicherei qua davanti a voi altri. E così abbrevierei la fatica del Ministero Pubblico. Perché invece non lo faccio? Perché non sono quelle le mie idee. Cos'è successo? Cominciamo a prendere un aspetto. Facciamo un esempio. Io ritengo di trovarmi davanti a manifestazioni di fatto attribuibili a un'organizzazione armata. Ma che cos'è un'organizzazione armata? Un pugno di persone che si danno una struttura clandestina, si forniscono di mezzi, armi, soldi, decisioni e agiscono contro il nemico di classe. Frase classica, spiega, non spiega, ma poca importanza. Certo, ci possono essere dei fatti che indirettamente fanno supporre più o meno fondatamente che questo pugno di persone, queste armi, questi fatti, questi accordi, questi teorici, queste risoluzioni strategiche esistano. E allora giustamente il responsabile per questo tipo di atto statale di repressione procede, perché deve procedere il suo mestiere. Oppure può esserci magari una situazione in cui di fatti non si trovano. Questi fatti attengono a manifestazioni che si potrebbero definire fra di loro difficilmente non riconducibili all'interno di un ragionamento univoco. Ci manca, come si suol dire, un collante, una cosa che tenga insieme. In questo caso l'ipotesi dell'organizzazione armata dovrebbe scomparire. Invece non scompare. Prego. Prego. Possiamo darle una bottiglietta di questa. Importante questo punto, perché l'ipotesi non scompare, l'ipotesi resta, perché una volta che è formulata resta. Se voi altri passate il tempo a leggere il mandato d'arresto e le annotazioni, diciamo una straordinaria creazione di una organizzazione armata che per il semplice fatto che se ne parla esiste. Una volta che se ne parla, e io poi estensore delle annotazioni, carabiniere estensore delle annotazioni, faccio riferimento all'organizzazione citata prima, ne parlo, la vedo camminare, diventa un fatto visibile, palpabile, che collega e riassume, incolla tutto un processo di ragionamento che è basato soltanto su un'affermazione iniziale. Possibile che, secondo la logica comune almeno, no? Se io cerco di provare una cosa che esiste, la cosa sussiste, prende corpo, si gonfia di sostanza, cammina, se invece non riesco a provarla dovrebbe scomparire, non scompare però, semplicemente resta come ipotesi. Resta una ipotesi non giustificata, ma siccome se ne è parlato, continua a camminare e a produrre effetti, effetti significativi ai fini dell'accusa, presumo. Questo ragionamento in una logica ci insegna una scuola, si chiama ragionamento oggettivante. Io faccio un'ipotesi. E per il semplice fatto che la che riesco a formularla, l'ipotesi si regge. Parlo di un'organizzazione armata. Certo, non esiste un'organizzazione armata che non ha un nome, gli attribuisco il nome, ecco che piglia corpo questa organizzazione armata. Che nessuno abbia mai usato questo nome se non i carabinieri dei Rossi. Non certamente famosi per le loro attività rivoluzionarie, ma poca importanza. Esiste perché io la nomino. Questo ragionamento tipicamente idealista della realtà creata semplicemente dalla parola deve essere sottolineato in questa sede, secondo me, deve essere tenuto presente perché corrisponde esattamente agli antipodi di quello che è il mio modo di vedere la vita. Il mio modo di constatare la realtà attraverso quella corrispondenza fra idee e fatti. Non posso fermarmi soltanto alle idee. Se io accettassi l'ipotesi fatta dal signor Presidente della Corte poc'anzi, quando diceva voi altri, lor signori non sono dominanti nei miei confronti, ma semplicemente sono al di là delle parti. Se io accettassi questa ipotesi, presupporrei la possibilità di chiamarsi fuori. No, non è possibile, signori miei, chiamarsi fuori. Avete sentito spesse volte l'accusa quando ha portato qui dentro, in quest'aula, i fantasmi del sangue, della strage, della distruzione, dell'anarchia, della morte. Questo significa passione. Indiscussamente il dottor Marini è un uomo d'onore. Certamente si è reso conto di aver calcato la mano sull'aspetto retorico delle scelte, delle parole, dei guati. Dappertutto, in Europa, se non nel mondo, si aggira un fantasma costruito da un pugno di anarchici. Questo fantasma vuole distruggere. Fosse così. Magari forse così. Ce ne sarebbero due di fantasmi, quello del comunismo e quello dell'anarchia. Quello ha fatto una brutta fine il primo, speriamo che il secondo non faccia la stessa fine e spero di cercare di spiegare il perché non può fare la stessa fine. Però i fatti di cui qua dovremmo pure occuparci, non sono come delle mele che si mettono in un cesto e quando il cesto si riempie si definisce un cesto di mele. I fatti si collegano tra di loro, i fatti nudi e crudi non esistono, sono visti, vissuti dagli uomini nella loro vita, i fatti entrano nella nostra vita, penetrano dentro di noi, ci trasformano. Le nostre idee sono sangue di fatti. I nostri fatti, quello che noi facciamo, ecco perché io a un certo punto non sono più stato in grado di fare dirigente industriale, perché quello che pensavo non corrispondeva più con quello che facevo. Le soluzioni erano due, la schizofrenia assoluta o la rottura. Non è possibile chiamarsi fuori. Ecco. Ecco perché non penso che sia per me possibile definire semplicemente con non esiste, non mi interessa, non mi riguarda. L'accusa che mi viene rivolta come appartenente, addirittura come capo di una banda armata. Eccomi che sono sdegnato. Perché queste accuse si indirizzano non a fatti come me compiuti, si indirizzano alla mia vita, si indirizzano alla totalità della mia persona. Si indirizzano a quanto di più intimo esiste in me. Consentitemi, io non voglio arrivare a che voi altri possiate lontanamente condividere sia pure una piccola parte del mio modo di vedere le cose. Voglio semplicemente che questo mio modo di vedere le cose, assolutamente essenziale per poter capire in che situazione io mi vengo a trovare, sia, non dico chiarissimo, ma almeno in parte chiaro. Come ho detto, io sostengo un'assoluta compenetrazione del sapere e del fare, della attuazione pratica e della consapevolezza delle cose che noi facciamo. Dice, ma queste sono teorie che tutti quanti siamo d'accordo. Non credo. Per la visione anarchica della vita non c'è una separazione fra il sapere, il fare e la teoria. Non c'è un luogo della teoria e non c'è un luogo della pratica. Le due cose sono insieme. L'azione è essa stessa teoria. E la teoria è essa stessa azione, se è realmente teoria e non una creazione astratta del pensiero che pretende diventare realtà nel momento soltanto che viene formulata. Ecco perché, armato di pistola, una mattina con un mio compagno sono andato in una gioielleria di Bergamo per fare una rapina. Ecco perché l'accusa vi ha detto, guardate, queste sono persone pericolosissime. Buonanno, armato di una pistola lunga così, la spianata sotto il naso di un gioielliere, per cercare di impadronirsi di quello che normalmente si chiama il mal tolto. Io non voglio tediarvi sulle mie tesi su che cosa sia veramente il mal tolto, non è questo il nostro campo di discussione. Mentre viceversa vorrei farvi riflettere sul fatto che se io non sono disponibile ad accettare il ragionamento comune del fatto che debbo concorrere, come ho fatto per 17 anni pieni della mia vita, alla produzione del capitale e dello sfruttamento, dei soldi e dell'arricchimento, non certamente mio. Non ero un capitalista, signor Presidente, ero un servo dei capitalisti, che è un'altra cosa, mi consente. Quindi se io decido questo, ma questo lo decido nel mio cervello e nel mio cuore, se non sono un imbroglione con me stesso, e sappiamo per certo che nessuno, io posso mentire davanti a voi altri, ma non posso mentire davanti a me stesso. L'unico tribunale davanti al quale non è possibile mentire è il tribunale di se stessi. Nessuno di noi può farlo. Se io quindi non voglio mentire a me stesso e voglio guardarmi nello specchio, sia pure nello specchio di una cella di isolamento, ma nello specchio voglio guardarmi la mattina senza avere il ribrezzo di me stesso, io devo entrare in quella gioielleria armato da una pistola così, anche se poi, se volete che vi dico, certo non è facile fare rapini. Difatti non è che sia poi andata così bene la rapina di Bergamo. Sono stato condannato a 5 anni, mi pare 5 anni e 8 mesi. Quindi le teorie determinano conseguenze sulla realtà ed è giusto quindi dal punto di vista del Ministero Pubblico che le teorie vengano perquisite. Quindi è sbagliato e fuorviante quando qui dentro stesso è stato detto noi non perseguiamo le teorie, non è vero. A parte il fatto che il codice lo dice chiaramente, a parte il fatto che in 30 anni ho avuto decine di processi per le mie teorie, a parte il fatto che sono stato assolto, ma sono stato anche condannato. Quindi non è vero che le teorie non vengono perseguite. E perché giustamente, dal punto di vista dell'accusa, giustamente perché vengono perseguite le idee? Perché le teorie e quindi anche le idee, perché hanno conseguenze sulla realtà. Per agire tutti noi abbiamo bisogno di capire, per prendere una decisione, loro signori avranno bisogno di un insieme di cognizioni, di dati di fatto, di discussioni, che consentiranno a loro di arrivare ad una conclusione. Cancellando questo aspetto squisitamente teorico, squisitamente analitico, di approfondimento, non sareste in grado di arrivare a una conclusione. Ecco quindi che il rifiuto da parte mia è venuto ad un certo punto della mia vita. Tenete presente, scusate se mi permetto che insisto su momento, io non sono un ribelle, sono stato sempre quello che tristemente si definisce il primo della classe, sempre questa persona sono io. Il rifiuto del potere da parte mia, quindi il rifiuto di tutte le attrattive del potere, i soldi, lo status sociale, il riconoscimento, la possibilità di fare carriera, le cattedre, non è stata semplicemente una conseguenza di un ragionamento, ma anche una questione del cuore. A un certo punto, dentro ognuno di noi, le idee cominciano a trovare corpo, a maturare, forse col passare degli anni, non lo so. Certuni impiegano mesi, certuni impiegano anni, non lo so. In fondo, se riflettiamo un poco, la nostra vita di che cosa è fatta? Di informazioni. Oggi lo sappiamo per certo. Il capitale stesso non è più costituito da aspetti finanziari quanto da aspetti informativi. La televisione, i giornali, quotidianamente riceviamo una serie massiccia che dai teorici della democrazia è stata definita a pioggia. Su di noi piovono milioni di informazioni quotidiane. Ma qual è lo scopo di questo processo informativo? Informativo. Tenerci aggiornati su situazioni sulle quali non abbiamo assolutamente la capacità di intervenire. Noi abbiamo soltanto opinioni. Ecco, ci costruiscono delle opinioni. Questa è la condizione democratica, diciamo, in cui viviamo. Ah, io mi ero armato per registrare la cosa, però non sono stato capace di farlo, quindi diciamo stare. Posso registrare questa cosa, oppure non è possibile? Vabbè che me lo sono ricordato adesso. Col suo piccolo apparecchio, anche perché le sue dichiarazioni vengono registrate. Sì, ma tanto peraltro, no, come sempre mi capita, non l'ho nemmeno acceso, quindi vabbè, lasciamo bene. Pagando una certa somma di denaro, può avere anche i dischi. Sì, forse è meglio, perché peraltro non... ha questo diritto di fare la richiesta, naturalmente dietro pagamento del relativo corrispettivo. Beh, mi pare giusto. Quindi, tornando al nostro discorso di prima, la formazione dell'opinione, noi viviamo in una realtà democratica che mi consente stamattina di essere qua, di parlare con la Corte, di poter esprimere idee che certamente non sono né semplici da un lato e nemmeno correnti, diciamo, dall'altro lato. perché viviamo certamente, se fossimo in una condizione di dittatura, come lo si era, poniamo 50 anni fa, 600, no, di più, 70 anni fa, non sarebbe stato possibile. Però noi paghiamo un prezzo, attenzione, alla condizione democratica in cui viviamo, non c'è dubbio. Da certi punti di vista è una condizione progressiva, significativamente progressiva, però il prezzo che paghiamo può essere altissimo. L'induzione dell'opinione ci priva di quello che ha significato per la vita di ognuno di noi, di quelle che potremmo definire le nostre vere e proprie idee. Noi abbiamo opinione dappertutto, su tutte le cose, perché questi ci sono molto utili per poter rispondere agli appelli democratici che ci vengono rivolti, il voto, la partecipazione alla vita della nazione, ognuno secondo il proprio livello, la propria condizione. Ma in fondo, dentro di noi, sappiamo che la libertà di locomozione, il fatto che io ieri sera ho preso il treno da Catania per venire qua, e nessuno ha disturbato, non c'erano carabinieri alla stazione o all'arrivo. Questa è la libertà di qualcosa, non è la libertà. Il fatto che io sia a dire qua la mia oggi, la libertà di parola, di qualcosa, non è la libertà. Ma dentro di noi, per capire e dare un senso a queste libertà, dobbiamo avere l'idea di libertà, il concetto fondamentale, ragionevole dentro di noi, radicato dentro di noi di libertà, perché se non l'abbiamo, quelle libertà non sono altro che accidenti, occasioni che ci vengono forniti. E questo concetto di libertà riesce a farci dormire la notte tranquilli, riesce a farci sentire al di sopra delle parti, riesce a farci chiamare fuori. Dal 1972, l'anno in cui per la prima volta sono stato arrestato con accusa di istigazione alla rivolta e apologia del reato, sono stato condannato a 2 anni e 2 mesi per 2 articoli pubblicati su un giornale. Da allora ad oggi sono stato condannato svariate volte e sono stato assolto anche parecchie volte, sempre per reati a mezzo stampa, escluso la rapina di Bergamo, che non dobbiamo dimenticare perché costituisce un giro di boa fondamentale nella mia vita. Sono stato condannato a 2 anni e 2 mesi quindi per questi articoli pubblicati su un giornale che si chiamava Sinistra Libertaria del 72, condannato a 1 anno e mezzo per un libro che come titolo portava La gioia armata, condannato nel 79 e assolto varie volte. Io so bene che i reati di istigazione alla rivolta, apologia, non fanno parte delle accuse che mi vengono rivolte, però sono importanti per far capire qual è il mio modo di considerare il rapporto che esiste fra le mie idee e quindi il mio lavoro teorico e la realtà. Se mi consentite, le mie idee sono state viste qualche volta e potrebbero essere considerate anche in questa sede, però per questo voglio puntualizzarle meglio, come una istigazione. Se io teorizzo, ad esempio, analizzo la formazione, le trasformazioni del capitale negli ultimi 20 anni, facendo vedere alcuni movimenti che sono stati fatti di ristrutturazione, quindi di rafforzamento, mi si potrebbe, come è stato fatto tantissime volte, accusare di istigazione a colpire le realizzazioni del capitale. Il capitale non è un'astrazione, è fatto da uomini e da cose. Però c'è nel concetto di istigazione, c'è una malazione, come se fosse una cosa brutta, come di chi nascosto al sicuro, lanci il sasso e poi nasconda la mano. Ecco, questo secondo me non è pensabile, almeno per quel che mi riguarda. Il rapporto fra istigatore e istigato, io non l'ho mai visto come un rapporto tra un'azione attiva e un'azione passiva. In forza di quel ragionamento che si è fatto prima, tediandovi probabilmente a lungo, però sulla non possibilità di stabilire una differenza netta tra teoria ed azioni. In fondo, l'istigazione non esiste per me, in quanto o quello che una persona, un rivoluzionario afferma approfondendo un problema, o ha una rispondenza nella realtà, cogliendo elementi significativi, o non ce l'ha. Ma nel primo caso, chi riceve il messaggio lo approfondisce, agirà come meglio crederà opportuno, nel secondo caso saranno parole gettate al vento, che non hanno significato alcuno, perché è appunto frutto di elucubrazione di una mente matta probabilmente, o che ha interesse, diciamo, di natura soltanto teorica. Il compito di una teoria analitica quindi non può essere quello dell'istigazione, ma quello dell'approfondimento dei problemi. Per lo stesso motivo, non sono nelle mie teorie, almeno nei miei scritti, non c'è l'esaltazione a critica di qualcosa. Ma ogni punto affrontato viene, nei limiti delle mie possibilità ovviamente, approfondito. Non acriticamente, ma viene approfondito criticamente. Ma questo perché è possibile questo approfondimento critico? Ad esempio, il concetto stesso di apologie venne coniato a proposito di dei padri della Chiesa, cioè di una parte della a Tertulliano, cioè dire alla vigilia della conquista del potere da parte della Chiesa. Tertulliano è l'ultimo padre della Chiesa che viene definito apologeta. Per lui tutto va bene. All'interno delle comunità cristiane tutto si è in comune, tranne le donne, tutto perfetto, si realizza il cielo in terra. Appena 50 anni dopo, come la Chiesa va al potere, quindi con Cipriano, immediatamente ci sono delle teorie critiche. Non è vero che tutto va bene nella comunità, c'è gente che si imbaronisce dei soldi dei fratelli, ci sono i battesimi di massa e così via. Perché in appena 50 anni c'è questa differenza? Questo è un problema storico che non ci riguarda, però è questa la differenza che c'è fra l'apologia a critica e la critica specifica dei vari problemi. Cipriano può permettersi perché lui ha davanti una situazione che non deve più imbrogliare la gente, deve semplicemente chiarire, perché si sente sicuro ormai. Ora, nelle annotazioni a pagina 21 sta scritto, ecco, oltre a quanto enunciato prima, di assoluta rilevanza per la delineazione della struttura dell'organizzazione rivoluzionaria anarchica insurrezionalista in esame, risulta l'articolo dal titolo Nuove svolte del capitalismo. Ora, questo articolo mio è secondo l'accusa, l'elemento centrale, il testo centrale di un'organizzazione armata, clandestina, che si chiama ora Organizzazione Rivoluzionaria. Scusatemi chi non è anarchica insurrezione, lei lo sa meglio di me, io ne sono il capo, però. Sono il capo di imputazione. No, arrestate siamo. Dunque, se la Corte è d'accordo, se signor Presidente, se lei è d'accordo, io vorrei, non è molto lungo, io vorrei leggerlo. Sono. Scusi, l'articolo dove si parla dei gruppi di attività. Io penso che sia la. L'articolo è fondamentale, a dire della stessa annotazione, non è una, sono parole mie, se siamo d'accordo. Lei legga le parti essenziali, insomma, le parti più importanti. Senta, le dico di più, siccome poi, come spiegherò dopo, questo articolo costituisce già esso stesso una scaletta di conferenze che tenni in Grecia nel 93, e esso stesso striminzito. Quindi richiederebbe casomai una spiegazione di alcuni punti che mi renderò conto, se lei è d'accordo. Allora, bene, sul finire degli anni 70 e fin dentro i primi anni 80, stiamo parlando della situazione italiana, l'assetto industriale e produttivo dei paesi più avanzati, in grado di guidare e condizionare il capitalismo in tutto il mondo, era in crisi. Vi ricordate la situazione della pesantezza del costo del lavoro, essenziale in questo periodo? La rigidità delle catene di montaggio, la difficoltà dell'Alfa Romeo, li abbiamo vissuti tutti questo. Il rapporto tra impianti e produttività non era mai stato peggiore. Le lotte sindacali e proletarie, specialmente le manifestazioni più aggressive e violente guidate da varie strutture rivoluzionarie di classe, avevano consolidato un costo della manodopera del tutto sproporzionato ai proventi del capitale in quel periodo. Sembrava che tutto il sistema andasse verso il suo naturale collasso, essendo incapace di riaggiustarsi all'interno, come pure non avendo la forza di ricorrere a drastiche riduzioni del costo del lavoro e dell'occupazione. Ma di già nella prima metà degli anni Ottanta le cose andarono velocemente cambiando. La ristrutturazione industriale prese la strada dell'elettronica. I settori produttivi primario e secondario, cioè agricoltura e industrie, si contrassero con forti riduzioni occupazionali, mentre il settore terziario si allargò a dismisura, assorbendo una parte della manodopera licenziata e attuando quindi contraccolpi sociali che i capitalisti temevano più di ogni altra cosa. Io non penso che sia necessario spiegare questo testo fino a questo punto, giusto? Insomma, non ci furono quelle sommosse e quelle rivoluzioni tanto temute, metropolitane, che i padroni temevano. Non ci fu una pressione reale e intollerabile dell'esercito proletario di riserva, ma tutto si adagiò morbidamente su di una modificazione produttiva. Le grandi industrie sostituirono gli impianti fissi con nuovi impianti robotizzati, in grado di raggiungere con modesti investimenti livelli di flessibilità produttiva prima impensabili. Il costo del lavoro diminuì nel suo rapporto con la produzione, senza con questo causare una riduzione della domanda, perché il settore terziario tenne ottimamente, fornendo linee di reddito, cioè dire salari, sufficienti a pompare il sistema capitalista nel suo insieme, cioè dire a sostenere la domanda. La più gran parte dei lavoratori licenziati, se non proprio un'altra occupazione, riuscì a trovare modo di arrangiarsi tra le pieghe del nuovo modello capitalista flessibile e permissivo. Certo che come introduzione per un testo che deve, perché questo che ci aspettiamo da questo testo, deve formulare la tesi di un'organizzazione armata clandestina, mi pare quantomeno anodina. Vabbè, la nuova mentalità produttiva. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza sorgere di una nuova mentalità, flessibile sul posto del lavoro, con riduzione della qualificazione professionale e aumento della domanda di piccoli lavori complementari l'uno all'altro, e principalmente senza il consolidarsi di quello che abbiamo detto prima della mentalità democratica. le antiche illusioni gerarchiche su cui si basavano i sogni di carriera delle classi medie e i miglioramenti salariali del proletariato scomparvero per sempre. E ciò fu possibile grazie ad un intervento articolato a tutti i livelli, nella scuola, con l'adozione di programmi di insegnamento meno rigidi, più assembleari, meno carichi di contenuti, ma più adatti a costruire nei giovani allievi una personalità morbida, in grado di adattarsi ad un futuro incerto che avrebbe fatto inorridire i loro genitori. Nella gestione politica dei paesi capitalisti avanzati, poi l'Italia, dove un autoritarismo spesso formale si sposava con forme periferiche di democratizzazione azionaria, ci riferiamo a due cose, al governo Craxi, a questo punto, chiaramente, e alla nascita del sindacalismo di base, i Cobas e cose via, dove la gente veniva coinvolta non tanto in decisioni serie, ma nelle procedure fettizie di un meccanismo elettorale e referendario, nella produzione, dove, come abbiamo detto, la scomparsa della qualificazione professionale rendeva i produttori addomesticati e flessibili, nello stesso spirito dei tempi che vedeva tramontare ogni velleità di certezza filosofica e scientifica per proporre un modello debole basato però sulla ricerca del rischio e della scelta del coraggio, ma sull'aggiustamento nel breve periodo, sul principio che niente è certo ma tutto si può aggiustare. Questo è il concetto di mentalità democratica. Il paragrafo continua, parla della mentalità democratica, secondo paragrafo. Ora passiamo al terzo paragrafo. Ostacoli alla lotta insurrezionale contro il capitalismo post-industriale e lo Stato. Senza dubbio, queste trasformazioni strutturali del capitale hanno reso necessaria tutta una serie di riflessioni su quella che possiamo definire l'azione rivoluzionaria e hanno fatto emergere alcune considerazioni su nuove difficoltà sconosciute all'attività rivoluzionaria, poniamo, di 100 anni fa, del passato. Dicevamo poc'anzi, non so se ricordate, la differenza tra dittatura e democrazia. Essere rivoluzionario in una condizione di dittatura sotto molti aspetti è più facile, sotto altri aspetti è più difficile, e al contrario per la democrazia, sotto molti aspetti è più facile ma sotto altri aspetti è molto più difficile. Quindi continuiamo però nel leggere questo testo fondamentale di un'organizzazione armata clandestina. Senza dubbio il primo ostacolo è costituito, ostacolo della lotta insurrezionale, il primo ostacolo è costituito proprio da questa mentalità flessibile che è andata insinuandosi nella realtà in cui viviamo, una mentalità amorfa, non tanto assistenzialista vecchia maniera, quanto desiderosa soltanto di trovare una nicchia dentro cui sopravvivere, lavorando il meno possibile, accettando tutte le regole del sistema, disprezzando ideali e progetti, sogni e utopie. I lavoratori del capitale hanno fatto un ottimo lavoro in questo senso, dalla scuola alla fabbrica, dalla cultura allo sport, tutto collabora, tutto si coordina nel costruire individui modesti, sotto ogni aspetto, incapaci di soffrire, di trovare il nemico, di sognare, di desiderare, di lottare, di agire. Poi, condizione correlata con la precedente, il secondo ostacolo è dato dalla marginalizzazione del ruolo produttivo, cioè del tramonto, della cosiddetta centralità della classe operaia. Lo smembramento della classe dei produttori è ormai una realtà e non solo un progetto nebuloso. E questa divisione in tanti piccoli settori, spesso antitetici l'uno con l'altro, produce un aggravamento della stessa marginalizzazione. Ciò produce superamento veloce di qualunque struttura tradizionale di resistenza del proletariato, partiti e sindacati in primo luogo. Questi ultimi anni hanno fatto vedere il tramonto progressivo del sindacalismo, vecchia maniera, compreso quello che conservava velleità rivoluzionarie e autogestionarie, il cosiddetto sindacalismo di base. Ma più di ogni altra cosa, questi ultimi anni hanno fatto vedere il tramonto o il crollo dei partiti comunisti, che pretendevano imporre la costruzione di uno Stato dove il socialismo si realizzava in sostanza a partire dal controllo poliziesco e dalla repressione ideologizzata, il cosiddetto socialismo reale. Di fronte a questi due colossali cedimenti non si può dire che sia stata individuata una strategia organizzativa in grado di rispondere alle mutate condizioni della realtà. Le proposte che gli anarchici insurrezionisti hanno avanzato, specialmente quelle che più coerentemente si indirizzano verso la costruzione di strutture informali. Stiamo attenti perché adesso io non vorrei azzardare un'ipotesi, però a me sembra che la lettura di questo testo da parte dei signori carabinieri dei Rosso, perché io devo riferirmi a loro sulla base della firma che è apposta sulle annotazioni, sia stata fatta, come dire, quando si trova la parola organizzazione fermiamocela, quando la parola organizzazione non c'è non ci fermiamo, quindi facciamo attenzione perché qua parrebbe si parla di strategia organizzativa, quindi facciamo attenzione a quello che stiamo dicendo, giusto? Quindi di fronte a questi due colossali cedimenti non si può dire che sia stata individuata una strategia organizzativa in grado di rispondere alle mutate condizioni della realtà produttiva e sociale nel suo complesso. Gli anarchici, io in particolare parlo in prima persona, mi chiedo, non riesco a vedere fatti colossali da 10 anni a questa parte, ci passano sotto gli occhi, non riesco a vedere qualcosa di realmente significativo che nasce nel mio cuore e nella mia mente. Le proposte che gli anarchici insurrezionisti hanno avanzato, specialmente quelle più coerentemente che si indirizzano verso la costituzione di strutture informali, basate sull'affinità di individui e gruppi, non sono state ancora comprese nei loro sviluppi pratici. Quindi strutture informali significano raggruppamenti, probabilmente, di gruppi informali che non si danno una struttura fissa. Approfondiremo questo concetto perché qua se ne parla a lungo. L'informalità cos'è? L'assenza di caratteristiche permanenti nel tempo, l'assenza di riferimenti rigidi. Per il momento questo concetto può essere bastevole. E sull'affinità di individui e gruppi. L'affinità sono persone che si conoscono e quindi è un insieme di conoscenze che riguarda il passato di ognuno dei compagni che fanno parte di un gruppo, si conoscono e decidono di discutere, di agire, fa quello che vogliono insieme. A me non sembra che ci sia per adesso nessun discorso di tipo centralista organizzativo, perché poi in fondo è di questo che si discute, signor Presidente. E gruppi non sono state comprese, io mi chiedo, sono state comprese queste cose? E rispondo, non sono state comprese nelle loro possibili evoluzioni pratiche. E qualche volta hanno ricevuto, anche da parte di molti compagni, un'accoglienza piuttosto tiepida, se non proprio una certa ritrosia. Qualche volta comprensibile, perché abbandonare le vecchie mentalità per applicare nuove concezioni di lotta e nuovi metodi di organizzazione è difficile. Quali sono queste vecchie organizzazioni di lotta? Sono le organizzazioni federate, le organizzazioni, cioè dire, che da 100 e passa anni danno corpo al movimento anarchico internazionale. Più avanti diremo qualcosa su questo punto. A nostro avviso rimane centrale nella lotta contro le nuove strutture della repressione e del controllo del capitale questo punto organizzativo, ne parleremo più avanti. La ristrutturazione tecnologica. La rivoluzione tecnologica contemporanea, fondata essenzialmente sull'impianto informatico generalizzato a tutti i settori della vita, sul laser, sull'atomo, sulla scienza delle particelle subatomiche e sui nuovi materiali che permettono utilizzo e trasporto di nuove energie, eccetera, eccetera, e sulle modificazioni genetiche applicate non solo all'agricoltura ma anche agli animali e anche all'uomo, la scienza non si è limitata a cambiare il mondo, ha fatto di più. Ha prodotto condizioni di imprevedibilità tali che non è possibile fare previsioni o programmi attendibili, non solo da parte di coloro che intendono mantenere lo stato di cose presenti quanto più a lungo possibile, ma anche da parte di coloro che intendono distruggerlo. Qua mi riferisco alla tesi abbastanza diffusa oggi che, se è possibile, dicono gli stessi tecnici del potere, prevedere l'evoluzione di una singola tecnologia, non è possibile prevedere le conseguenze che una singola tecnologia nel suo sviluppo, poniamo la trasformazione genetica nel suo sviluppo, può avere su altre tecnologie di già esistenti o anche tecnologie del passato, con conseguenze, francamente, che nessuno può prevedere. Il motivo essenziale è dovuto al fatto che le nuove tecnologie, interagendo fra loro e inserendosi in un contesto tecnologico avente una storia e uno sviluppo vecchi di 2000 anni almeno, possono produrre conseguenze inimmaginabili, alcune delle quali distruttive in maniera totale, ben al di là degli effetti pazzescamente pensabili di qualsiasi esplosione atomica. Quindi il paragrafo continua, da qui la necessità di un progetto distruttivo della tecnologia nel suo insieme, di un progetto di lotta che pensi come prima ed essenziale fase alla distruzione, che fondi ogni suo approccio programmatico di natura politica e sociale sull'indispensabilità di fermare il attuale processo altrimenti irreversibile della tecnologia, in particolare della tecnologia telematica. Non dimentichiamo, signor Presidente, il discorso che abbiamo fatto, perché sennò ci perdiamo. Non si tratta di sposare idee incondivisibili, si tratta di capire chi c'è scritto qua. Ristrutturazione politica, economica e militare. Nella pratica la ristrutturazione tecnologica si realizza attraverso profonde modificazioni nel settore economico. Questi cambiamenti hanno conseguenze nell'assetto politico dei paesi a capitalismo avanzato, nell'assetto militare, e tutto il paragrafo continua. Non sto a tediarvi spiegando come avvengono queste trasformazioni politiche, economiche e militari. Quindi fino a, diciamo, al quarto paragrafo, se non sbaglio, c'è stato soltanto un piccolo accenno al rapporto tra organizzazioni, gruppi informali e affinità. Questi due concetti di cui poi parleremo meglio dopo. L'altro paragrafo parla del crollo del socialismo reale, della rinascita dei diversi nazionalismi di cui abbiamo esempi sotto il naso quotidianamente. Ora ci avviciniamo a quello che può essere più significativo, la possibilità di sviluppo della lotta insurrezionale di massa verso il comunismo anarchico. Questo è il titolo di uno dei paragrafi. Emerge un concetto importante, la massa. Che cos'è il concetto di massa? Farebbe una cosa che sappiamo tutti quanti, però un minimo di approfondimento lo richiede oggi, dopo le esperienze degli ultimi 20 anni. Prima si parlava molto più facilmente di classe, avendosi fenomeni sociali sotto gli occhi caratterizzati fortemente da comportamenti di classe, classe operaia, classe marginalizzata, sottopagata, eccetera. Trasformazione molto maldestente. Ho dato cenno prima, in questo stesso testo, hanno dato rapporto, trasformazione talmente radicale, smembramenti, marginalizzazioni, esclusioni, che non sto a approfondire perché sarebbe troppo tedioso, che oggi è più corretto, secondo me, anziché parlare di classe, parlare di esclusi e di inclusi, cioè di una parte dominante e di una parte che viene sempre di più marginalizzata ed esposta a quelle che saranno le conseguenze di ogni genere, che domani ricadranno su coloro che non hanno la possibilità di poter decidere della propria vita. Questo si tratta di grandi numeri, stiamo parlando di masse. Quando si tratta di una lotta insurrezionale di massa, davanti agli occhi a me mi viene sempre la Comune di Parigi. Decine di migliaia di persone che scendono nella strada. Io mi ricordo le parole che dal ragazzino che ho letto dal Marchese Pareto, grandissimo economista italiano di lingua francese però, che vide che cosa scese nelle strade. Quale marea di deformità sociali per la prima volta la borghesia europea vide sotto il suo naso. Quale paura! Io scusi, sospenderei per 5 minuti, va bene? Per carità. E poi vediamo.